L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, lo spazio settimanale che Radio 24 dedica all'Europa per scoprire il nostro continente anche attraverso altre storie, altri personaggi. Tentiamo di seguire quella che è l'attualità, quello che è il costume, però anche da altri punti di vista. L'Europa, Parigi, la Francia, il problema dei Rom, se di problema si può parlare, visto quello che sta accadendo con la decisione del governo Sarkozy di avviare queste espulsioni strane, perché vengono dati 300 euro e vengono concessi dal governo a ogni adulto che volontariamente, forse tra virgolette, decide di andarsene, anche se entro un mese l'ordine di lasciare il paese sarà senza sussidio. E sono già decine i Rom che sono stati rimpatriati e vogliamo capire quello che sta accadendo, quella che è la cronaca, ma non solo, anche quelle che sono un po' le voci della popolazione, le opinioni. E quindi abbiamo convocato il direttore di Agora Vox, questo portale di giornalismo partecipativo che ha sede a Parigi. Diamo il benvenuto a Francesco Piccinini. Ciao Francesco. Salve, buongiorno. Buongiorno, buon sabato a te, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Allora, Francesco, ricordiamo che il tuo portale, il tuo organo di informazione è proprio realizzato da tantissime firme, perché sono i cittadini che possono scrivere e portano i contenuti nel tuo portale. Di cosa stanno scrivendo in questi giorni e qual è l'approccio a quello che sta accadendo nei confronti del popolo Rom? Guarda, l'approccio è molto scettico verso la decisione del governo. La cronaca vuole che negli ultimi due giorni, tra giovedì e venerdì, ci siano stati in tutto 216 rimpatri, tra virgolette, volontari, come hai giustamente detto tu, ovvero di cittadini di etnia Rom che sono stati rispediti in convogli in Bulgaria o in Romania dietro un sussidio di 300 euro per gli adulti e di 100 per i bambini. Ma la voce che, diciamo, più di tutte si leva in questo momento è certamente una: tutti sono coscienti che dietro a questo sussidio, tra virgolette, la battuta è: si vanno a fare un giro, salutano le famiglie e poi rientrano a casa e rientrano in Francia. Ed è questo un po' lo spirito di questo momento. E l'altro spirito, certamente, è visto come una manovra populista in questo momento di Sarkozy per nascondere un po' i problemi che il suo esecutivo sta attraversando, non ultimo lo scandalo Wirt e Betancourt. 349-238-6666, il numero se anche voi volete inviarci sms per dirci quella che è un po' la vostra opinione. Francesco, però, magari non sono quelli che scrivono, non sono quelli che partecipano al tuo sito, ci sarà però parte della popolazione d'accordo con Sarkozy. I Rom fanno paura oggi in Francia? Guarda, i Rom non fanno paura, ma ti spiego una cosa: c'è una parte della popolazione che ovviamente sta diventando sempre più razzista. Degli ultimi giorni un caso nel sud-ovest della Francia di un commerciante che non ha accettato Rom dentro il proprio negozio. È una situazione che nasce soprattutto da uno spirito di timore e di razzismo che sta un po' crescendo in una Francia che non era assolutamente abituata a queste cose, culla di diritti. Ma è anche uno spirito che nasce recentemente. La popolazione Rom, o quello più in generale, quelli che sono definiti gens de voyage, i gitani praticamente, sono una popolazione che in Francia è regolata da una legge dal 1969 e solamente durante il governo Sarkozy, nel 2009, una commissione guidata da un senatore di cui mi sfugge un attimo il nome, ha deciso di non equiparare i Rom ai gitani, cosa che è sempre stata fatta dal 1970 fino a un anno fa. Sono entrati i tuoi corrispondenti, i tuoi collaboratori, chiamiamoli così, nei campi Rom? Hai avuto anche delle inchieste dal territorio, da dentro ai campi? Testimonianze, ma anche perché non dobbiamo dimenticare che i campi Rom sono una cosa assolutamente legale in Francia. Proprio all'interno di questa legge, all'interno di una legge del 1980, è stato deciso che tutte le città con più di 5.000 abitanti devono dotarsi di spazi per accogliere i gitani, e quindi i campi Rom illegittimi sono pochissimi rispetto alla stragrande maggioranza del paese, immagino quasi tutte le città, stiamo parlando dell'87% delle città francesi con più di 5.000 abitanti, sono dotate di campi che possono accogliere i gitani. Cosa succede? Cosa succederà? Ve lo siete immaginato? Nel senso, cosa prevedete che possa accadere ora? Continueranno queste espulsioni? La popolazione prenderà posizione? Cosa vi immaginate? Ma io penso, guarda, il sentore comune è che le espulsioni andranno avanti finché l'attenzione mediatica non scemerà, si sposterà su qualche altra cosa, e da quel momento in poi ci sarà il solito tram tram di espulsioni. Leggevo i dati del Ministero dell'Interno che diceva che l'anno scorso ci sono state 10.000 espulsioni di Rom, dato forse un po' esagerato se vuoi, visto che proprio la comunità Rom attesta la propria presenza in Francia su circa 15.000 persone all'anno. Continueremo a parlare di Rom e di cultura romani con i prossimi ospiti qui all'Altra Europa. E Francesco, cambio completamente argomento, spero che tu, insomma, me lo concedi, vero? Porto un tocco di leggerezza. Abbiamo letto di questa diatriba tra Asterix e McDonald's in Francia, grandi polemiche anche su questo fatto. Sì, grandissime polemiche, perché McDonald's ha utilizzato quello che è un simbolo nazionale in Francia, come Asterix, e sembra che la diatriba vada a terminare. E, diciamo, è più folklore che altro. Okay. All'interno della popolazione è proprio l'ultimo dei pensieri in questo momento. Ok, questa cosa ci consola, perché avevamo letto paginate invece. No, veramente è l'ultimo dei pensieri. Ecco, forse lo scopo l'hanno raggiunto, che era quello di finire sui giornali. Sicuramente, guarda. Francesco, grazie, complimenti a te, insomma, grazie al lavoro di tutta la tua redazione partecipata. agoravox.it se volete conoscere questo sito. E vi ho detto che avremmo continuato a parlare di Rom e di cultura romani soprattutto, e anche di soluzioni positive, di belle contaminazioni tra nazioni, e lo facciamo con Roberto Malini, che da anni si batte per i diritti umani qui in Italia, è cofondatore, copresidente di un'associazione molto importante che si chiama Everyone. Ciao Roberto, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie dell'invito. Ciao. Roberto, tra l'altro tu mi dicevi che proprio in queste ore sei in contatto diretto con molte di queste famiglie Rom che dalla Francia stanno partendo, perché è espulso anche per scelta, perché mi sa che qualche famiglia abbia deciso in autonomia di fuggire di fatto prima di essere espulse. Sì, noi siamo in contatto con diverse famiglie che, fuggendo da città italiane in cui erano in atto sgomberi continui senza alternative di alloggio, si sono spostati in altri paesi dell'Unione Europea, fra cui la Francia. Dopo un primo momento nel 2008 di buona accoglienza, poi c'è stata questa caccia al Rom che oggi ha raggiunto i grandi titoli sulle pagine dei giornali. Sì, sono tutti molto preoccupati per questo motivo, perché si nota che nonostante l'Unione Europea come organismo attualmente sia molto favorevole all'integrazione dei Rom e ha realizzato in questo senso delle direttive, dei documenti, però poi alla prova dei fatti, mancando veri piani di integrazione, si nota che dovunque si riscontrano poi problemi abbastanza simili. Quindi queste famiglie sono preoccupate non tanto di questo episodio, che effettivamente non intacca la loro possibilità di muoversi negli Stati dell'Unione, perché comunque potranno andarsene in Romania se poi troveranno condizioni, purtroppo le troveranno perché la crisi è molto forte in Romania in questo momento e tocca molto duramente i Rom. Se troveranno condizioni difficili, in breve tempo potranno tornare sicuramente in Francia o muoversi in altri paesi. Roberto, prima di dirmi quello che state facendo, arrivano tanti messaggi al 349-238-6666 di questo tenore anche, ma piantiamola di far apparire i Rom come dei santi, si tratta di gente che non fa nulla dalla mattina alla sera e vive alle spalle della nostra società, Eraldo. E si parla di cultura Rom, di cultura romani, poi si parla anche di delinquenza quando si parla di Rom. Dove sta la verità? Qual è la posizione equilibrata che bisogna tenere quando si affronta questo argomento, tu che conosci molto bene la situazione? naturalmente, diciamo che la situazione italiana, che è nata purtroppo attraverso tanti anni di cattiva informazione sui rom, che poi è finalizzata a un certo tipo di politico, comunque di gestione del territorio, che non prevedeva la presenza dei rom, come oggi non prevede neanche quella dei clandestini, tra virgolette. Quindi il problema ovviamente nasce da una cultura, purtroppo tutti i problemi sociali nascono da una cultura. Nel Medioevo i rom venivano bruciati insieme alle streghe, oggi i rom sono costretti a vivere in dei ghetti, ma questo nella migliore delle ipotesi, perché di solito invece sono costretti a spostarsi da un luogo all'altro, cacciati come se fossero bande di criminali, comprendendo donne, uomini, bambini. Ovviamente una situazione di totale precarietà comporta disagio sociale e comporta anche nascita di fenomeni di devianza, quindi di criminalità, di uso di stupefacenti o di alcolismo. Il problema che ovviamente l'unica soluzione, ma questo avviene anche nelle fasce deboli italiane, avviene tra i senza tetto, avviene nella stessa percentuale naturalmente in ogni etnia, compresa l'etnia ospitante. Se manca innanzitutto una cultura che porta all'integrazione vera dei rom, avremo sempre questo fenomeno di disagio. Comunque, per rispondere a quelle persone, che noi comprendiamo in questo momento di caccia all'uomo, il rom è visto come l'uomo nero, il nemico della società, però tra i tanti rom sgomberati e scacciati dall'Italia e adesso dalla Francia esistevano per esempio capi cantiere che in Romania ai tempi di Ceausescu hanno costruito interi quartieri della città di Bucarest, esistevano coltivatori che hanno ottenuto grandi appezzamenti e hanno addirittura ottenuto delle conquiste nel campo dell'allevamento, dell'agricoltura biologica, esistevano persone con grandi specializzazioni in vari campi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e anche delle arti, perché alcuni dei più grandi violinisti fisarmonicisti, musicisti provenienti dalla Romania hanno vissuto in Italia. Non solo, in Italia abbiamo sgomberato e cacciato anche alcuni degli ultimi rappresentanti dell'olocausto dei rom, perché noi per esempio a Sesto San Giovanni abbiamo avuto Mihai Grancea, che ha fatto Auschwitz ed è un personaggio che, se avessimo una civiltà tollerante, andrebbe nelle scuole e in televisione a parlare per raccontare dello Zigeunerlager, che è una pagina della storia dell'olocausto che è stata quasi dimenticata. Invece semplicemente i poliziotti l'hanno cacciato in malo modo con i cani insieme agli altri rom. Questo purtroppo è la realtà. Poi la gente, sai, può spesso volere a tutti i costi un qualcuno con cui prendersela, perché non sta bene, perché magari non ha la macchina bella e non ha la casa che vorrebbe e ha fatto le vacanze che non sono andate abbastanza bene, perché questi poi sono i problemi della gente. Però dovrebbe anche rendersi conto che se non arriviamo finalmente a pensare, a guardare anche che esistono gli altri, probabilmente saremo insoddisfatti anche domani e ce la prenderemo con un'altra etnia o con un altro gruppo sociale. Roberto, voi però non fate solo teoria, ma fate anche progetti concreti, uno dei quali mi piace molto perché è di integrazione tra nazioni, in questo caso tra Italia e Romania, ed è questo progetto che si chiama Romasia o Romasia, non so quale sia la giusta dicitura che avete scelto. Ce ne puoi parlare? Certo, e Romasia potrebbe essere un grandissimo progetto, perché nasce dall'esperienza sia di specialisti dei diritti umani, ma sia anche di specialisti della gestione di territori produttivi e di specialisti di tecnologie di agricoltura e allevamento di etnia rom. Quindi diciamo che c'è il pool che ha creato questo progetto, è veramente il massimo in quanto a competenza. Il progetto Romasia prevede questo, potrebbe essere fatto benissimo anche in Italia, prevede che le famiglie rom, in maniera autodeterminata e con l'aiuto di qualcuno, nel nostro caso di privati, purtroppo perché istituzionalmente nessuno ancora ha finanziato il progetto, entrano in possesso di un terreno adatto a sviluppare attività di agricoltura biologica e di allevamento, e su questo terreno costruiscono una fattoria, quindi la costruiscono con mezzi propri, quindi con mano d'opera propria, perché appunto tra le competenze rom vi è anche una forte competenza nel campo dell'edilizia. Quindi noi per esempio siamo riusciti a raccogliere una somma sufficiente perché un nucleo familiare, che ormai comporta una ventina di persone, potesse avere vicino a Costanza in Romania un appezzamento adatto a costruire la fattoria biologica. E casualmente la fondazione di questa prima fattoria di Romasi, che è work in progress, in questo momento è lavoro in corso, è avvenuta il 27 gennaio, giorno della memoria 2010, speriamo che porti che sia simbolicamente possa essere importante. C'è da notare questo, che questa famiglia che noi abbiamo scelto, la famiglia Ciuraru, che è una delle famiglie che nascono proprio proprio da sopravvissuta all'olocausto, questa famiglia era una famiglia che ormai, vivendo da una città all'altra in stato di totale persecuzione, si era un tantino lasciata andare. Quindi il papà, il capofamiglia, il capostipite, era dedito all'alcolismo e i figli erano un pochino quello che si definisce senza patria, senza speranza. E, da quando hanno per questo progetto loro stessi hanno investito quel poco denaro che in tutta la vita avevano messo da parte, quindi noi li abbiamo aiutati, ma loro hanno contribuito a loro volta. E diciamo che dal giorno in cui è stato fondato il progetto ed esiste il terreno con atto notarile e di loro proprietà, e miracolosamente, ma secondo noi non miracolosamente, ma perché esiste una speranza, un orizzonte buono, questi limiti si sono lentamente dissipati, quindi il papà non tocca più alcol e i figli hanno un grandissimo entusiasmo nel costruire e hanno ritrovato un totale orgoglio e una grande fede nel futuro. Quindi insomma, è bastato poco, un progetto concreto, ma non è l'unico, ve ne vogliamo parlare di un altro, questa volta al contrario, perché si parte dalla Romania e si arriva in Italia. Anche noi siamo venuti qua per andare alla scuola, per essere intelligenti e per trovare una casa. Disegno tutta la mia vita come era e faccio il mondo, faccio come c'è in Romania di male e come c'è qua. Io disegno come siamo noi di tristi, come c'è i topi, disegno, è molto importante il disegno per me. A me per questa cosa, per disegnare, è molto importante perché posso fare mia mamma, mio padre come triste e come felice. Io vorrei essere in disegno tutti felici. Lei si chiama Rebecca Covaccio, ha 14 anni e disegna, non scrive disegna, è una pittrice, è un'artista anche se è così giovane. E, Roberto, Rebecca è una storia molto legata alla vostra associazione, ce la vuoi presentare tu? Sì, Rebecca è profondamente legata al gruppo Everyone perché viene da una famiglia di rom romeni che hanno vissuto un po' dovunque in Europa, qualche anno fa si sono stabiliti in Italia e purtroppo sono capitati nel momento in cui c'era una forte pressione delle autorità sui rom. Hanno subito molti sgomberi, il papà ha subito dei pestaggi molto brutti di impronta razzista, è finito più volte all'ospedale, però la famiglia non ha mai mollato. Un giorno l'abbiamo incontrata, abbiamo scoperto questo grande talento di Rebecca che in quel momento viveva sotto i ponti, alla luce di una candela la sera faceva dei piccoli disegni e rappresentava la sofferenza e la speranza del suo popolo. Rebecca ha continuato, nonostante lentamente la famiglia è migliorata, l'abbiamo molto seguita, però è una famiglia che veramente merita perché si impegna con grandi forze, ha vissuto a Napoli e purtroppo durante i roghi di Ponticelli, ha vissuto nel sud Italia e non ha trovato un'integrazione. Ora a Milano vivono in una casa, i ragazzi, Rebecca e i fratelli vanno a scuola con ottimi risultati e Rebecca continua questa sua attività di pittura e fede, pittura e diritti umani, pittura e speranza. Ecco, questa è Rebecca Covaccio. Ciao Rebecca, buongiorno. Ciao. Ciao, come stai? Grazie per aver accettato il nostro invito. Prego. Stai disegnando in questo periodo? Quali sono le immagini che stai portando su carta? Io disegno, cerco di fare questo mondo più possibile contento e felice con i colori. Mm-hmm. In questo momento sto disegnando la nostra casa, come siamo noi felici in questa casa, e disegno che io sono a scuola, felice. E quindi insomma un po' la tua vita quotidiana. Tu hai vinto un premio molto importante sui diritti dell'infanzia, un premio UNICEF, e non solo, perché recentemente hai fatto anche teatro insieme ad Arturo Bracchetti, vero? Disegnavi sì. Live durante i suoi spettacoli. Sì, sì, è vero, è stato molto molto bello perché ho fatto la disegnatrice nel teatro, è bellissimo. Rebecca, raccontaci la tua quotidianità, tu vai a scuola, vero? Che classe fai? Faccio la seconda media, quest'anno devo fare la terza media. Mm-hmm. E cosa ti dicono i tuoi compagni di classe? Apprezzano la tua arte? Ti vedono come artista? Ti vedono come amica? Ti vedono come rom? Ti vedono come compagna di classe? Chi sei per loro? Il primo giorno quando sono venuta a scuola mi hanno visto come rom, come avevano paura così. e poi è passato del tempo e così adesso stanno cominciando a vedermi come una persona normale, come un artista. Insomma, quindi credo sia stato una bella soddisfazione. Certo. Insomma, quando l'integrazione passa anche attraverso l'arte, ma soprattutto attraverso lo stare insieme. Grazie davvero, Rebecca, complimenti, in bocca al lupo per la tua attività, non dico per la tua carriera, perché comunque sei ancora giovanissima. Ciao e buon sabato. Roberto, grazie anche a te. Vuoi ricordarci il sito internet per conoscere le vostre attività? Ti ringrazio, www.everyonegroup, quindi everyonegroup in inglese.com. Perfetto, ciao e grazie, buon sabato anche a te. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità, poi torniamo qua con l'altra Europa. Euro post-it. In vacanza per imparare le mille facce della cultura rom. Nella città di Valjevo, tra le colline che separano la Serbia dalla Bosnia, si trova la Amala School for Gypsy Culture, che ogni estate, nel mese di luglio, organizza corsi di una o due settimane per imparare la cultura rom. Studenti provenienti da tutto il mondo hanno la possibilità di imparare la lingua, la musica, i balli e le tradizioni rom. Sono previste escursioni nei villaggi per assistere a feste e celebrazioni familiari, oltre a visite a località storiche e a partecipazione a concerti e eventi culturali. Tutte le informazioni sul sito galbeno.com. Altra Europa, stavamo parlando di cultura rom e continuiamo a farlo insieme ai Matrinja Klezmer Band. Sono 7 musicisti con una storia davvero singolare, perché sono olandesi, francesi, siciliani di età diversissime tra di loro. Si sono incontrati a Palermo e da lì è iniziato il loro percorso, che è passato anche attraverso questo corso di specializzazione in musica e cultura romani all'Ama Summer School in Serbia, di cui abbiamo parlato poco fa nel nostro post-it. Diamo il benvenuto a Devi, che è il cantante dei Matrinja. Ciao Devi. Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, grazie. E tu? Io molto bene, grazie. Tu sei il francese del gruppo? Dico esatto. Bene? Esatto. Okay. Perché insomma siete una contaminazione anche voi di voci, etnie, popoli diversi. Sì, vabbè, siamo siciliani, olandese, francese, tipo ci siamo conosciuti a Palermo un po' per caso e insomma... Abbiamo iniziato a fare musica assieme. Ecco, e il tutto parte anche da questo corso di cultura romani che qualcuno di voi ha fatto. Come mai questa scelta? Non parte da questo. Praticamente, man mano che tipo ci dirigevamo verso questa musica, alcune di noi hanno sentito il bisogno di conoscere meglio le tradizioni, le culture di questa musica, per perfezionarsi e per sentire un po', diciamo, la musica più nell'anima, se si può dire in italiano. sì, si può dire. E cosa avete portato a casa da questo corso? Cosa abbiamo portato a casa? Abbiamo portato a casa, vabbè, il mio fisarmonicista è andato lì, Daniele Tesaro, ha portato a casa un bel po' di tecnica. La cosa bella è che siccome lì non parlavano inglese, ora non lo so, forse è cambiato, il discorso di comunicazione si faceva molto attraverso la musica, attraverso i gesti, attraverso lo sforzo di uno verso l'altro per capirci, quindi era molto bello. Ma e questa cultura romani la portate nei vostri concerti? Voi che musica fate di fatto ora? Noi suoniamo un bel po' di musica balcanica. Prima suonavamo un pochino più di musica klezmer, che è la musica degli ebrei. Poi abbiamo suonato un sacco la musica balcanica. Ora tipo stiamo facendo un po' di musica world music, anche perché comunque siamo un gruppo con tante persone, con tante direzioni musicali, tanti gusti, e quindi tipo, però la nostra passione per la musica dei Balcani è sempre qui ed è molto presente nei nostri concerti. E questa musica l'ha portata anche in giro per l'Europa o siete ancora una realtà locale? No, abbiamo suonato in Belgio, abbiamo suonato in Francia, abbiamo suonato in Grecia e poi spesso suoniamo in Italia. Mm-hmm. Ecco, e all'estero c'è un approccio diverso rispetto a questo tipo di musica? Penso che in Francia la musica balcanica diciamo riscuote molto più successo per tramite il pubblico che va ai nostri concerti, quindi tipo è già vinto, diciamo, quando arrivi là e suoni musica balcanica la gente da più di 15-20 anni che assiste a concerti di questo genere, quindi è molto abituata e molto appassionata. In Belgio pure, in Grecia insomma siamo andati là che era un festival che si chiama Sette Soi Sette Luas, è molto famoso, è molto bello, che è proprio per l'interculturalità è un festival importantissimo, perché fai conto che ci sono tipo 42 concerti in 32 città in tutta Europa, quindi insomma più di così non si può fare come scambi. Davi, invece un po' di affari tuoi, da francese come sei arrivato in Sicilia e perché hai deciso di rimanere lì? È semplice, io sono venuto a trovare due amiche che facevano l'Erasmus e i coinquilini erano il fisarmonicista e il chitarrista, quindi è stato proprio un caso, diciamo. Quindi non è stata una scelta di cuore, ma una scelta musicale, diciamo. Sì, una scelta musicale, anche una voglia di vedere paesaggi diversi. Quando passi da Lille a Palermo, ovviamente cambia un po' il paesaggio, diciamo. Prossimo appuntamento col concerto il 29 agosto, mi pare, vero? Sì, il 29 agosto in Sicilia, a Polina, stiamo facendo... stanno facendo tipo il Tanto di Capello, che è un'associazione di clown, il primo festival di artisti di strada della Sicilia occidentale. E voi ci sarete? E voi ci sarete con i Matrimia Klezmer Band. Sì. Grazie davvero, Davi, a te e a tutti i componenti della tua band. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao. Europostit. Oriente Express, giovani reporter alla scoperta dei Balcani. Oriente Express è un progetto promosso dal sito caffebabel.com in collaborazione con la Commissione europea. Si tratta di un progetto che coinvolge 8 capitali e 8 team di giovani giornalisti e fotografi che viaggeranno tra Tirana, Belgrado fino a Istanbul per raccontare che cosa sta accadendo in quest'area dell'Europa così eterogenea e ricca di fermento. Chi avesse voglia di partecipare alla missione Oriente Express, che partirà dalla Turchia a ottobre, può inviare il suo curriculum con allegate anche delle idee su possibili reportage a editors@caffebabel.com. Questi sono i nostri europostite, dritte, segnalazioni, indirizzi utili sull'Europa e per l'Europa, come sempre. Vi lascio il nostro indirizzo email se anche voi volete segnalarci notizie che trovate, notizie che ritenete interessanti. L'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. L'altra Europa, raccontiamo storie di, a volte di viaggi, di migrazioni, di scelte e di vita all'interno dell'Europa, molte volte di italiani che vanno all'estero. Questa volta invece sono due stranieri che hanno scelto l'Italia per cambiare la loro vita. Sono una coppia, si chiamano Stef e Nico, due ragazzi olandesi felicemente sposati tra di loro in Olanda. Hanno scelto di mollare tutto e trasferirsi in Italia, dove hanno aperto un bed and breakfast e sono qua con noi. Do le benvenuto a Stef e Nico. Ciao Stef. Ciao, buongiorno. Enrico. Ciao Nico. Ciao Nico. siete lì vicino, giustamente. Sì, sì. Sento l'eco di uno nel telefono dell'altro. Allora, Stef, ho trovato la vostra storia sul sito vogliovivere così.com, che okay. È un bel catalogo di vite particolari, di vite curiose. E solitamente si parla di italiani che scelgono di andare oltre confine, voi invece avete fatto un viaggio all'incontrario. Come mai avete scelto l'Italia e come mai avete scelto di abbandonare l'Olanda? Abbiamo scelto di fare un lavoro diverso, di cambiare un po' la vita, perché siamo già un po' anziani, diciamo così, e dopo una carriera di 20-30 anni abbiamo deciso di fare qualcos'altro e ci è piaciuto molto di fare un tipo di lavoro nell'ospitalità e abbiamo pensato che sarebbe una buona idea di farlo all'estero, e perché non andare in Italia, perché è un paese che è molto viaggiato dai gli olandesi, e quindi abbiamo pensato di sarebbe possibile di farlo così, un business come bed and breakfast. Mm-hmm. Quindi una scelta strategica proprio, ci avete pensato. Dove vanno gli olandesi? Sì, strategica, ma anche per noi stesso, il clima e il paese ci ha già piaciuto da tanto, ma è una combinazione di idee diverse. Ecco Steph, e com'è per un olandese vivere in Italia? Nel senso, sono culture comunque molto diverse o no? Sì, ma non tanto diverse, sono tutti e due paesi dell'Ovest, paesi culturali, e ci sono delle differenze, ma fa anche un piacere di scoprire queste differenze, e si guarda anche lo stesso paese diversamente adesso, perché c'è un altro modo di vivere e di fare le cose. Mm-hmm. È un'esperienza. Mm-hmm. E Nico, voi siete sposati in Olanda e in Italia invece ovviamente no, perché non si può. E vivete da separati in casa? No. Ma il nostro matrimonio non è accettato in Italia. Non è riconosciuto. Siamo per la legge due persone separate. Mm-hmm. E questo ha portato dei problemi logistici, dei problemi tecnici nella vostra scelta anche di venire qua a aprire un'attività insieme? Sì, perché in Olanda siamo sposati in comune degli beni, sì. Ma qui non era più possibile, per questo abbiamo fatto alcune misure per avere insieme la proprietà del bed and breakfast, anche per le tasse. Abbiamo fatto un testamento solo questa è la lingua che ogni tanto scivola. È ancora molto, molto difficile per me. Steph, invece tu con l'italiano te la cavi meglio? Non lo so. Non posso dire. Per quello abbiamo scelto di fare un'intervista di coppia, perché quando mancava una parola da una parte sarebbe arrivata da quell'altro, no, sicuramente. No, Steph, però è una domanda di tipo culturale, nel senso che ok, dal punto di vista legislativo non siete sposati in Italia, dal punto di vista culturale invece com'è stato l'approccio nei confronti della vostra coppia? È difficile vivere da coppia in Italia? No, non trovo alcuna differenza fino ad ora. La gente è molto aperta, è molto accogliente e no, non si sente un problema. Non abbiamo incontrato problemi fino ad ora. Ecco, e da questo punto di vista vi eravate informati? Non credo, anche tutti i paesi, anche l'Italia è un paese europeano, non conoscono come funziona il mondo, non sono ignoranti, si sa che cosa capita nel mondo, che quale cose esistono, eccetera. Mm-hmm. Quindi, non si sa mai come si parla, come si chiacchiera quando non siamo qui, ma fanno lo stesso per Olanda, non si sa. Fortunatamente non si sa e non si preoccupa. Bravo, esatto, e non si vuole sapere appunto perché non interessa più di tanto. Villa I Due Padroni è il nome del Bed and Breakfast, www.duepadroni.it per conoscere Steph e Nico, due padroni dello stesso cane, dico bene, è stata quella la scelta del nome. Sì, è questo, il cane è stato il... come si dice, è venuta dal cane di chiamare la casa I Due Padroni, anche perché siamo accoglienti ai cani, si okay. Può anche portare cani. Insomma, almeno il cane è rimasto nella comunione di beni, diciamo, sì. Anche in Italia. Grazie davvero, buon sabato e buon lavoro, ciao. Europost-it. stage da sogno a Bruxelles e Strasburgo. 1000 euro al mese e la mensa a prezzo agevolato. Niente male per un tirocinio presso le istituzioni europee, un'esperienza formativa e anche remunerativa. Il bando è aperto, ci sono 600 posizioni, delle quali 70 circa riservate agli italiani. Lo stage è della durata di 5 mesi, da marzo a luglio 2011, e si terrà a Bruxelles o a Strasburgo. Ci sono ancora pochi giorni disponibili fino alla fine del mese per candidarsi. I requisiti sono l'appartenenza a uno dei paesi dell'Unione, la laurea triennale e la conoscenza di almeno una delle tre lingue utilizzate dalle istituzioni, e cioè il francese, l'inglese e il tedesco. Per trovare facilmente i link e i form per inviare le candidature potete visitare il sito italiano repubblicadegliestagisti.it, che dedica ampio spazio a queste opportunità. E il prossimo viaggio attraverso l'Europa lo facciamo con una scrittrice albanese che oggi vive a Parigi ma scrive in italiano. E do il benvenuto a Ornella Vorpsi. Ciao Ornella! Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Tu sei nata a Tirana e hai vissuto anche in Italia però per qualche anno, sì, giusto? Sì, ho vissuto pochi anni, diciamo 4 anni dell'Accademia di Brera e poi ho fatto uno scambio universitario, Erasmus, e dunque sono da 12 anni a Parigi. Uh-huh. Ma dall'Albania sei scappata? In maniera un po', direi in maniera un po' più educata, più dolce, sono partita. Sei partita, ok. E dall'Italia invece non sei proprio scappata. E dall'Italia invece sei scappata? Un pochettino, sì. Ah sì? Come mai? non so, ho conosciuto la Milano di 15 anni fa. E quindi perché adesso tornando in Italia vedo che comunque è cambiata, sì. Ma l'ho trovato molto difficile da penetrare, di poter trovare un posto, il mio posto, quindi a Parigi mi è sembrato più una situazione più flessibile, più facile da afferrare, ecco. Mm-hmm. Quindi hai scelto di rimanere a Parigi, anche se però continui a scrivere in italiano, quindi questa tua contaminazione di culture continua ed è ben presente nella tua quotidianità. Come mai che scrivi in italiano? Ma per certi versi mi rimane ancora molto oscura la faccenda, direi un po' così, perché la logica vorrebbe che scrivessi in francese, in effetti, perché la mia vita si svolge in francese da 12 anni. Penso che è stata la prima lingua che ha, tra virgolette, rimpiazzato l'albanese, è un po' la lingua di affetti perché ho un marito italiano, sì. E perché comunque ho creato una piccola dimensione in questa lingua con l'italiano e quindi ci vorrebbe una grande energia per poter fare lo stesso, che un giorno dovrò fare i conti, però che è francese, perché comunque l'italiano più va avanti il tempo e più mi scivola, ecco, una lingua che comunque non fa parte del mio quotidiano. Mm-hmm. Ma volevamo sfruttare questa tua triplice identità, di fatto anche per capire quelle che sono le differenze culturali oggi tra la Francia, tra l'Italia e tra l'Albania, tre nazioni non poi così diverse tra di loro, perché hanno tantissimi punti di contatto, punti di contatto che tu vedi, che tu vivi? Allora, oddio, se parlare dunque di differenza, di somiglianze, cadrei per forza in una forma di generalizzazione, quindi mi fa un po' paura. Certo. Però ti dirò che gli italiani mi mancano tantissimo, la loro simpatia, la facilità delle relazioni. Qua a Parigi, insomma, non ce l'hai, questo aspetto umano non c'è. I francesi sono molto più ritenuti, molto più distanti, molto più difficile alle amicizie, però Parigi è una città in confronti di Milano, per esempio, che funziona benissimo, che funziona a meraviglia dal punto di vista pragmatico. Ho un po' di difficoltà quando parlo perché sento tutto il tempo la mia voce in eco. Succede, si è che difficoltà con i telefoni, scusaci. No, ci mancherebbe, solo che è un po' di... E quindi è una città che funziona a meraviglia, però dal punto di vista umano veramente mi manca molto l'Italia, mi manca molto l'Albania, perché a livello umano è molto più aperto, molto più simpatico, molto più caloroso. Ornella, nei tuoi libri, soprattutto nell'ultimo, scrivi di donne, sono storie di donne in movimento, di migrazione anche. Cosa racconti attraverso le tue donne? Racconto quello che mi è stato molto caro in tutti questi anni di viaggio, quello che ho potuto vedere. Evidentemente non è un libro che porta una realtà proprio cruda, nuda così. Evidentemente ho cercato di fare altra cosa con la scrittura, di gestire queste storie diversamente. Però erano delle storie, dei vissuti che non potevo assolutamente ignorarli, avevo bisogno organico di raccontarli, di renderli concreti e di poter condividere con altre persone. Non sono in un libro di finzione, malgrado ho cercato di fare altra cosa con questa materia prima. Sono in un libro, in effetti, che racconto delle cose dolorose, però che a me nel mio percorso mi sono state care e che mi hanno segnato per sempre. Ornella, ti sei abituata ad essere bella o è una cosa che ti disturba ancora, come ho letto in un'intervista di qualche anno fa? Oddio, ma no, come? Non sono bella abbastanza. Questa è la tragedia, vorrei essere di più. Ma no, cioè i giornalisti ogni tanto cambiano i propositi, non ho mai detto che sono bella, anzi se c'è il giorno vi chiamerò e vi dirò ecco oggi mi sento bella, non sono bella abbastanza, è una tragedia. Va bene, speriamo che accada di sabato, così saremo qui in diretta e potremo dare la notizia in diretta. Quindi voilà. Grazie davvero Ornella, magari ci ritroviamo in una delle prossime puntate o se vieni in Italia, davvero faccelo sapere così ti ospitiamo in studio per raccontare un incrocio, un incontro di culture attraverso la scrittura. Grazie, buon sabato, ciao. Grazie a voi, ciao. Europostit. Fish Pedicure, l'ultima frontiera dell'estetica, sta prendendo piede. L'idea è thailandese, ma la sua diffusione in Europa si deve ai saloni di bellezza britannici che per primi l'hanno sperimentata. Si tratta di sostituire all'uso degli strumenti classici come le limette e le forbicine piccoli pesciolini vivi. Basta immergere i piedi nella vasca con i pesciolini e aspettare che l'enzima che sprigioni non rimuova tutte le cellule morte della pelle ed ecco che la pedicure è fatta. L'innovativa pratica viene suggerita anche per rilassare il corpo, sciogliere i muscoli e attenuare la tensione. Unico limite? Possono farla solo i clienti che non soffrono il solletico. E chiudiamo parlando di teatro in Europa con uno dei festival più importanti che si sta tenendo a Edimburgo. Sono centinaia di eventi e per conoscere quello che è il clima, quella che è la situazione, quello che si vive lì sul posto ad Edimburgo in queste ore, abbiamo invitato Rodolfo Di Gianmarco, inviato critico teatrale di Repubblica, che ha fatto un bellissimo pezzo qualche giorno fa e dove veramente si respirava il clima di Edimburgo. Ciao Rodolfo. Ciao a voi, ciao a te, grazie. Quanti spettacoli hai visto? Perché leggendo il tuo pezzo ti sei divertito in quei giorni a Edimburgo. Direi una media di 4-5 al giorno. D'altronde il totale, qui sono due festival, erano le International Festival e poi il Fringe. Il totale del Fringe sono circa, fra teatro e danza, 820 spettacoli e il Festival Internazionale sono circa 15 spettacoli. Ovviamente sono... Prego. No, dimmi. Sono due cose molto molto differenti, cioè mentre il catalogo del Festival Internazionale è deciso da un direttore artistico che è l'australiano Jonathan Mills, tutto quello che avviene nel Fringe è una expo, uno showcase pazzesco, perché tutti quelli che vogliono farsi vedere possono acquisire uno spazio, e ci sono circa 260 spazi attivi in questo momento, e e possono farsi vedere in tutto agosto. E quindi c'è chi decide dal basso di volersi proporre e chi è praticamente selezionato dall'alto. Mm-hmm. Questa è la vera divisione tra i due festival, che però sono contigui, ma a volte ci sono cose che potrebbero stare sia lì che là, insomma. Ecco, ecco, però facci un po' da guida turistica, nel senso, camminando per le vie di Edimburgo, quindi in questi giorni, cosa succede, cosa accade? Camminando si incrociano praticamente artisti, si incrociano persone già truccate, già pronte, già cattive o già buonissime, già molto sexy, eccetera, che sui marciapiedi, nelle piazze, in qualsiasi angolo ti fermano, ti danno i loro flyer, ti danno i loro volantini, ti parlano, ti imboniscono, fanno piccoli pezzi, eccetera. Tutto questo, ovviamente non tutti e 820 gli spettacoli si propongono con questi promo per strada, però diciamo che ne hai una grande previsione e quindi devi scegliere con criteri pazzeschi e quindi devi comprare riviste, giornali, devi incrociare i dati, le stellette, le famose 1-5 stellette che lì sono proprio una specie di decalogo, dei critici che riescono affannosamente a vedere, un po' come faccio io, facevo insomma 5 spettacoli, 6 spettacoli al giorno, e quindi ti danno delle indicazioni, perché altrimenti di fronte a una massa del genere insomma andresti solo per titoli, per simpatie del tutto, però c'è un modo, bisogna avere almeno 24 ore di relazioni, di letture e di riflessione, poi si va all'attacco e si va nelle varie venues, si chiamano appunto venues i siti dei teatri, perché poi non sono tutti come dire teatri, ecco, io uso questa parola, ma c'è tutto, cioè puoi andare in una chiesa, ovviamente in una piscina, in un ristorante, in un parcheggio, in una ex loggia massonica, in un locale notturno, insomma. Ecco, c'è un passaggio del tuo articolo dove dici rischi anche di essere l'obiettivo di attrici sadomaso, è andata tutto bene? Sì, ok, no, insomma, sai, leggendo l'articolo siamo un attimo preoccupati. Ringraziamo Rodolfo Di Gianmarco per averci dato questo assaggio di Edimburgo nel mese di agosto grazie a questo festival, e grazie davvero Rodolfo, buon weekend anche a te. Grazie a voi. Chiude qui l'Altra Europa, un grazie ad Alba Chiara Rondelli che con me ha scritto il programma, in redazione Luca Rinaldi, alla parte tecnica Carmelo Lauricella. Vi ricordo che le puntate sono riascoltabili in podcast dal nostro sito radio24.it e che potete contattarci in ogni momento scrivendo a l'altraeuropa@radio24.it. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo, come sempre alle 10. Noi invece ci ritroviamo domani alle 17 con Mine Vaganti.